Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ci siamo già occupati anche recentemente della certificazione energetica degli edifici, tornata infine obbligatoria dopo varie vicissitudini che hanno visto prima introdurre, poi revocare, quindi reintrodurre di nuovo l'uso di questo documento che, ricordiamolo, attesta il consumo energetico dell'abitazione e gli assegna una classe di appartenenza dalla A, la classe A è la migliore, fino alla G, che è la classe peggiore. Torniamo ad occuparci oggi di questo tema a partire da una lettera. Una lettera aperta che un certificatore energetico della Lombardia ha indirizzato alle autorità e agli ordini degli architetti delle varie province lombarde, in cui denuncia il pressapochismo con cui vengono prodotte molte certificazioni. Un fatto che abbiamo anche noi denunciato per la prima volta più di un anno fa, ed è quindi insomma con piacere che do il benvenuto all'architetto Maristella Roncalli. Buonasera Roncalli. Buonasera. Allora, lei in questa lettera, tra l'altro si trova facilmente a partire dal sito Casa e Clima, denuncia molto chiaramente che il problema delle certificazioni energetiche oggi ha a che fare, è un problema di qualità, diciamo. In pratica non c'è uno standard. Possiamo dire di sì, in realtà inizialmente la certificazione energetica era stata pensata come uno strumento molto specialistico rivolto a dei tecnici molto qualificati che dovevano operare secondo una determinata procedura. In realtà la Regione Lombardia ha una determinata procedura l'ha indirizzata, però non c'è da nessuna parte la possibilità di controllo sui vari tecnici per capire se questa venga applicata in maniera corretta e soprattutto standardizzata per tutti. Standardizzata, cioè con la stessa qualità per tutti, perché invece quello che accade è che c'è una specie di commercio di queste certificazioni a prezzi stracciati, no? Diciamo che ci sono molti tecnici che lavorano in qualità e lavorano come Dio comanda, certo. Poi ce ne sono anche altri che si svendono al miglior offerente pur di portare a casa qualcosa. Poi il tempo attualmente non è... Lei dice il periodo non è... Crisi, il periodo non è dei migliori, quindi ovviamente uno trova tutti i mezzi possibili pur di arrivare a fine mese, certo. Ecco, ma facciamo qualche esempio, certificazioni per telefono per esempio, no? Certificazioni per telefono, certificazioni addirittura via internet. Infatti. So di persone che appunto si fanno mandare la documentazione via internet e redigono il certificato. Ci sono notai che adesso cercano di verificare se effettivamente sono state applicate le procedure, o chiedono di vedere gli originali per capire se è stato fatto meno rilievo, se le cose sono state viste effettivamente. Ecco, perché insomma come minimo ci vuole un sopralluogo, bisogna fare dei rilevamenti, delle misure, esatto, insomma sì, non si può fare per telefono per quella ragione lì, insomma non è realistico. Dovrebbero essere prese alcune misure di verifica, bisognerebbe verificare se per esempio la scheda tecnica o comunque la CADE corrisponde a quanto è dichiarato sul libretto, bisognerebbe verificare le dimensioni dei serramenti, dei vetri, controllare tutta una serie di spessori delle murature, verificare se c'è una documentazione tecnica di partenza, quindi a parte i disegni, se esiste una legge 10, una documentazione tecnica. Insomma, bisogna verificare un sacco di cose che è un po' difficile verificare per telefono. Tra l'altro abbiamo i soliti che ci guadagnano anche sopra, perché c'è il sito che organizza e si prende però il 10%, già organizza prezzi stracciatissimi e poi si tiene il 10%. Ci sono dei giovani insomma che vengono mandati in giro, firmano, quindi ci mettono, si assumono anche la responsabilità di quello che scrivono e però prendono poi se no il 30% della tariffa, quindi abbiamo situazioni di ogni tipo. E vorrei sottolineare che oltretutto non sono piccole responsabilità, perché a fronte poi di un controllo che comunque la Regione Lombardia sta cercando di mettere in atto con sistemi non so se efficaci o meno, comunque il certificatore rischia delle multe da 3.000, 10.000 e passa euro, certo, nel momento in cui si venga riscontrata una non conformità. Dall'altro punto di vista, questi siti non fanno né l'interesse dei cittadini nell'interesse dei certificatori, perché da un lato i certificatori vengono messi in una condizione tale per cui loro sono in grado di determinare chi è il migliore, chi lavora meglio eccetera. In pratica l'unico criterio di scelta è semplicemente se il costo. La questione di costo e in alcuni casi anche l'apprezzamento dell'utente finale, ma l'apprezzamento dell'utente finale con quale criterio è stabilito? Quello ancora del costo, quello del prezzo. Certo. Allora... Ecco, tra l'altro i numeri dimostrano un po' questa situazione, no? Perché in Lombardia quanti sono oggi i certificatori? Credo siamo arrivati intorno ai 17.000. 17.000, ecco, in Danimarca, che a metà della popolazione della Lombardia, ce ne sono 6 o 700, ma fossero anche 1.000, insomma. Questo vuol dire che chiunque praticamente può fare una certificazione. con dei corsi, com'è che funziona? No, funziona che vabbè, ci sono dei tecnici competenti, tipo i termotecnici o comunque ingegneri o professionisti che si sono sempre occupati di termotecnica, certo, che hanno già i requisiti per poter accedere a questa cosa. Tutti gli altri tecnici prima dovevano essere iscritti a un ordine di appartenenza, aver seguito almeno dei corsi con un superamento di un esame finale. Adesso la cosa è diventata un po' più libera, il problema è che mi è sembrato di capire che anche questi corsi di formazione si siano moltiplicati come i funghi, fioriscono corsi da tutte le parti, addirittura mi è arrivato da qualche giorno fa una mail in cui si propongono addirittura dei corsi online nei quali è sufficiente iscriversi e poi alla fine del corso si ottiene l'abilitazione addirittura in più regioni, non so. Quale potrebbe essere secondo lei la soluzione? Un po' rapidamente perché siamo in chiusura. Prima di tutto la maggior sensibilizzazione dell'utente finale, d'accordo, che deve cominciare a capire a che cosa serve effettivamente questo certificato, che non è solo quello da portare al notaio per farsi fare l'atto. E poi dal punto di vista invece della regione fare dei controlli un po' più specifici sui, sì, certificatori. E da ultimo avevo pensato per esempio all'esperienza di Casa Clima, che è un'esperienza abbastanza importante che riguarda la provincia di Bolzano, dove per esempio loro hanno un ente di certificazione che ha dei certificatori iscritti che hanno determinati requisiti e nel momento in cui c'è necessità di una certificazione energetica non è l'utente finale che si cerca un certificatore, ma è l'ente stesso che gliene assegna uno, garantendo per lui, per la qualità e per le capacità di questo. Esattamente, garantendo per la qualità e soprattutto anche lì il prezzo è predeterminato, la terzietà, che è uno dei requisiti che anche Regione Lombardia impone, è sicuramente garantita. Il certificatore deve poi dichiarare che non ha avuto nessun tipo di relazione con l'immobile costruito, eccetera, eccetera. In questo caso è l'ente che fa tutta questa operazione, quindi la terzietà è sicuramente garantita. Mi sembra un buon esempio da prendere in considerazione. Sembra un buon esempio anche a me. Grazie, grazie Maristella Roncalli. Grazie a lei. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a lunedì. Parleremo di termo intonaci. A voi tutti, buon fine settimana da Maurizio Melis.